ad alta voce. Tommaso Ragno legge Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Quindicesima puntata. Senza una parola, tornata in cucina, mia madre si mise a sedere. C'era il braciere acceso in mezzo e lei a poco pigliò in mano le molle, poi le agitò, le dondolò, poi le cacciò nella cenere e rivoltò a poco le braci. Poi si alzò e andò al fornello e io pensavo che non avesse capito niente. «Mangerai con me prima di partire?» mi chiese. «Come vuoi», dissi io. «Come vuoi». Pensavo che non avesse capito niente. E sarei anche stato disposto a fare qualcosa per lei, benché il viaggio in Sicilia fosse ormai finito. Cara donna vecchia, madre fortunata. Mi chiese se mi contentavo, come il giorno prima, di una ringa, o se volevo un po' di cicoria. Mi chiese se intanto volevo una tazza di caffè, e si diede a preparare il caffè, e io vidi i suoi movimenti intorno alla caffettiera e al fornello. La vidi isolarsi nelle faccende, come ogni donna si isola. E tremai per la sua solitudine, per la mia, per quella di mio padre, per quella di mio fratello morto in guerra. «A che ora parti?» mi chiese. La Sicilia era divenuta ferma e io ne soffrivo. Risposi che volevo arrivare in tempo a partire quella sera da Siracusa. Lei macinava il caffè. Macinando calcolò intorno a treni e corriere. Poi disse «Spero che non andrai soldato, almeno». Allora seppi che lei aveva capito tutto. «Oh!» esclamai. E lei soggiunse «Tornerai qualche altra volta!» «Sei contenta che sia venuto a trovarti?» le chiesi io. E lei disse «Si capisce! Fa piacere parlare con un figlio dopo 15 anni!» Finì di macinare e un fruscio di acqua traboccata sul fuoco l'attirò di nuovo al suo fornello. Tutti quegli oggetti della sua solitudine. Continuò. «Gli anni vanno e vengono, i figli vanno e vengono». E come i corvi urlavano di là dalla finestra, disse «Questi corvi!» «Ma che cosa li chiama qui?» feci io. Mia madre alzò le spalle. «Ogni tanto spuntano». Nel silenzio che seguì io le domandai «Chi era?» Mia madre guardò le cose della nostra infanzia sparse per la cucina e guardò lontano, poi più vicino. «Più vicino», rispose, «era Liborio». «Ah, il terzo di noi», dissi io, e lei. «Non era ancora andato nel mondo e fu contento quando lo chiamarono. Mi ha mandato delle cartoline dai luoghi del mondo che ha visto». 3 l'anno scorso, 2 quest'anno. Belle città. Gli saranno piaciute. Erano le città della guerra, osservai. Credo, le rispose. Ed era contento, gridai. Lo gridai proprio. Poi soggiunsi. Una bella idea per il ragazzo. Disse mia madre. Non pensare male di lui ora. «Male!» io gridai. «Che ti salta in mente? Sarà stato un eroe!» Mia madre mi guardò come se io parlassi con amarezza. «No!» disse. «Era un povero ragazzo. Voleva vedere il mondo. Amava il mondo!» «Perché mi guardi così?» gridai. «È stato bravo! Ha conquistato! Ha vinto!» Ancora più forte gridai. «Ed è morto per noi, per me, per te!» Tutti questi siciliani per fare continuare tutte queste cose, questa Sicilia, questo mondo. Amava il mondo. «No», disse mia madre, «no. È stato ragazzo con te. Tu avevi 11 anni e lui 7. Tu, dammi questo caffè», gridai. «Sì», mia madre rispose. E riempì una tazza, me la portò. Posandola dinanzi a me sulla tavola, soggiunse «Immagino che non l'avrei riveduto lo stesso. Povero ragazzo, amava il mondo». La vidi isolarsi in questo pensiero, il povero ragazzo che amava il mondo, e rivolgere in sé il desiderio di ogni ragazzo: conoscere il mondo, camminare per le belle città, incontrare donne. Intanto bevvi il caffè, mia madre mi guardò come se fossi molto strano in faccia, come ad esempio se bevessi il mio caffè con sgomento e con rabbia. Invero credo che negavo il pensiero in lei del povero ragazzo e l'idea in me dei 7 anni. Non volevo che un soldato avesse 7 anni. Così, con vero sgomento o vera rabbia, esclamai: «Diavolo!» Mia madre tornò a sedersi sulla seggiola che era davanti al braciere e molto piano osservò: «Solo una cosa non capisco. Perché quella signora mi ha chiamata fortunata?» «Pronto», dissi, «ma è chiaro, per la sua morte che ti onora». E lei: «La sua morte mi onora?» E io: «Morendo, egli si è fatto onore». Di nuovo lei mi guardò come se parlassi con amarezza, anzi era un modo stabile nel suo sguardo, che veniva su di me non appena io mi mostravo. Un sospetto, un rimprovero. Con rimprovero disse: «E questa è mia fortuna?» Dissi io in ostinazione: «L'onore suo torna su di te. Tu l'hai partorito». E lei, sempre con rimprovero: «Ma l'ho perduto ora. Dovrei chiamarmi disgraziata». E io: «Niente affatto. Perdendolo l'hai acquistato. Sei fortunata». Interdetta, mia madre restò un momento a meditare. Sempre mi guardava con diffidenza, con rimprovero, e pareva che si sentisse in mia balia. Mi chiese: «Sei sicuro che quella signora non ha voluto prendermi in giro?» «Oh no», le risposi io. «Sapeva bene quello che diceva». «Pensava davvero che sono fortunata?» lei chiese. «Sicuro», io le risposi. «Avrebbe voluto essere al posto tuo». E lei: «Al posto di me?» «Come di me?» E io: «Di te, con Liborio morto». «Ne sarebbe stata fiera». Lei: «Mi invidiava, dunque». Io: «Tutte le donne ti invidiano». Ma pur sempre mia madre mi guardava con diffidenza. Si sentiva in mia balia, era evidente, e ora scattò: «Ma che dici?» «Dico la verità», dissi io. «È anche scritto sui libri. Non ti ricordi nulla dei libri di scuola?» disse lei. «Io ho fatto solo fino alla terza». E io: «Avrei studiato un po' di storia». Lei: «Mazzini e Garibaldi». Io: «E Cesare?» «Muzio Scevola, Cincinnato, Coriolano. Non ricordi nulla della storia romana?» Lei: «Ricordo quello che disse Cornelia, madre dei Gracchi». Io: «Oh, bene, e che disse Cornelia?» Lei disse: «Disse che i suoi gioielli erano i suoi figli». Io: «Lo vedi, Cornelia era fiera dei suoi figli». Ora mia madre sorrise. «Che sciocco!» esclamò. «Ma i figli di Cornelia non erano morti». «Già», dissi io, «non erano ancora morti. Ma per cosa credi che Cornelia fosse fiera di loro?» «Per cosa?» osservò mia madre. E io dissi: «Perché li sapeva pronti a morire. Cornelia era una madre romana». Mia madre si strinse nelle spalle, di nuovo interdetta, e sempre mi guardava con diffidenza. «Vedi», io continuai, «quella signora ti ha considerato come una specie di Cornelia. Non ti piacerebbe essere una specie di Cornelia?» «Non so», rispose diffidente mia madre, e chiese: «Com'era questa Cornelia?» «Ah, era una gran donna», dissi io. «Una nobile, una matrona». E mia madre: «Una bella donna». E io: «Bella e savia, alta, bionda, come te, credo». «Ma guarda», mia madre esclamò, «o perché ne scrivono sui libri?» «Tutto merito dei suoi figli», io gridai. «Fortunata!» esclamò mia madre. E io gridai: «Hai visto? Così pure sei fortunata tu!» Trasalì mia madre. «Io!» E rossa in faccia, fuoco e fiamme con la coperta sulle spalle, a precipizio esclamò: «Vuoi dire che scriveranno anche di me sui libri?» «Pressa poco», dissi io. «Di te e di tuo figlio. Già appartenete ai libri». Mia madre era stravolta. Non riusciva ancora a riprendersi e non diffidava. «Ai libri, ai libri!» gridò. «Alla storia!» dissi io. «Non lo sapevi. Uscito dal mondo, egli è entrato nella storia. E tu con lui!» «Io con lui!» gridò stravolta mia madre. «Tu con lui! Tu con lui!» gridai io. «Credi di appartenere ancora al mondo?» gridai. «A questa terra, qui, questa Sicilia!» Più forte gridai. «No, mia cara, vedrai che ti chiameranno e ti daranno una medaglia!» «Una medaglia!» mia madre gridò. «Sì, sul petto!» gridai io. E qui abbassai infine la voce. Continuai con calma. «Per ciò che ha fatto lui al mondo, a quelle città, alla Sicilia!» Conclusi. «Una medaglia per il merito di lui!» Ma mia madre proprio qui cominciò a crollare. «Com'è possibile?» disse. «Era solo un povero ragazzo!» E io cominciai a temere. Cominciai anche a ricordare. Che significava un povero ragazzo? Guardai intorno a me la cucina. Vidi il fornello e la pentola di coccio su di esso. Più in là la madia per il pane. E poi il recipiente dell'acqua, il lavandino, le seggiole, il tavolo, al muro il vecchio orologio cosiddetto di mio nonno. E guardando, temevo. Guardai temendo anche mia madre. Avvolta nella coperta era tra le sue cose come ognuna delle sue cose, piena di tempo, di uman genere passato, infanzia e via di seguito, uomini e figli. Altro che storia. Là dentro avrebbe continuato la sua vita e ancora si sarebbe arrostite a ringhe sul braciere. Sarebbe stata con le scarpe di mio padre ai piedi. Io guardavo e temevo e mi chiedevo chi fosse più povero ragazzo. Chi era più povero ragazzo? Temevo, ripeto, e intanto cominciavo anche a ricordare. E cominciando a ricordare presi fuori una sigaretta, me l'accesi. Era la mia prima sigaretta quel giorno e la mia unica, la stessa che mi era avanzata dalla notte di sbornia. L'accesi, buttai via il fiammifero e ricordando che sigaretta fosse, fumando, mi trovai a poco con lacrime sulle mani. Fumando uscii di casa. Cra, cra, cra. Urlavano per il cielo in cenere i corvi. Scesi nella strada, andai per le strade di quella Sicilia non più viaggio, ferma, e fumavo e piangevo. «Egli piange! Perché piange?» urlarono i corvi tra loro venendomi dietro. Io continuai il mio cammino senza rispondere, ed ecco mi venne dietro anche una vecchia nera. «Perché piangete?» domandò. Nulla, io risposi, e andai oltre, fumando, piangendo. E un facchino che aspettava sulla piazza con le mani in tasca mi domandò anche lui: «Perché piangete?» Anche lui mi venne dietro e io passai, sempre piangendo, dinanzi a una chiesa. Ci vide il prete, me e quelli che mi seguivano, e domandò alla vecchia, al facchino, ai corvi: «Perché piange quell'uomo?» Si unì a noi ed i fanciulli ci videro e esclamarono: «Guarda, egli fuma e piange!» Anche dissero: «È per il fumo che piange!» E mi vennero dietro con altri, portando dietro di me il loro gioco. Così pure mi venne dietro un barbiere, e mi vennero dietro un legnaiolo, uno straccione, una ragazza col capo avvolto in una sciarpa, un secondo straccione. Mi vedevano e mi chiedevano: «Perché piangete?» O chiedevano a quelli che mi seguivano: «Perché piange?» E tutti diventavano seguaci miei. Un carrettiere, un cane, uomini di Sicilia, donne di Sicilia e perfino un cinese. «Perché piangete?» chiedevano. Ma io non avevo nessuna risposta da dar loro. Non piangevo per qualche ragione. In fondo non piangevo nemmeno. Ricordavo. E il ricordo aveva questa apparenza di pianto agli occhi altrui. Che potevo fare? Continuavo per la mia strada. E giunsi ai piedi dell'ignuda donna di bronzo che era dedicata ai caduti. Mi trovai intorno tutti gli amici dei giorni prima e i siciliani che avevo incontrato e coi quali avevo parlato durante il viaggio. «Vi sono altri doveri», mi disse il gran Lombardo. «Non piangete». «Non piangete», mi dissero gli amici delle malattie. «Non piangete», mi dissero le amiche. E il piccolo amico delle arance, anche lui, mi disse «Non piangete». C'era il catanese e disse «Ha ragione, signore, non piangete». Disse il vecchietto dalla voce di secco fuscello. «Ma io non piango per voi», dissi. «Non piango». Mi ero seduto sul gradino a piè della donna di bronzo e i loro amici mi circondavano, credevano che piangessi per loro. «Non piango», io continuai. E piangevo. «Non piango, io smaltisco una sbornia». «Che significa?» disse coi baffi a senza baffi. «Qualcosa c'è sotto», disse senza baffi a coi baffi. «Non piango», io continuai, «non c'è nulla sotto». E l'uomo Ezechiele gridò «Molto offeso è il mondo». «Ma io non piango in questo mondo», io replicai. Disse la vedova «Piange per sua madre», l'altra donna disse «Piange per suo fratello morto». «No, no, non piango in me, non piango in questo mondo». E di nuovo dissi che anzi non piangevo affatto. Dissi che non piangevo per nessuno, per nulla di Sicilia e il resto, per nulla al mondo. E li congedai, li invitai tutti ad andare via. Dissi di nuovo che smaltivo una sbornia. Mi chiese la rotina: «O dove avete preso questa sbornia?» «Nel cimitero», io gli risposi. «Ma non bisogna parlarne». «Ah», la rotina disse. E io finii di fumare, finii di ricordare, smisi di piangere. Alzai allora gli occhi sull'ignuda donna di bronzo del monumento. Era una bella donna giovane, nelle sue dimensioni due volte il naturale e la sua pelle liscia di bronzo. «Ben fatta», avrebbe dichiarato mia madre, «con gambe, con seni, con schiena, con ventre, con braccia. Era fornita di tutto quello che rende una donna come uscita fresca dalla costola dell'uomo, in vero. Aveva anche segnato oscuramente il sesso e lunghi capelli le adornavano con sessuale grazia il collo. Il volto sorrideva per sessuale malizia, per tutto il miele in lei e per il suo stare ignuda là in mezzo, due volte più grande del necessario, in bronzo. Mi alzai e le girai attorno ad esaminarla meglio. Le andai di dietro, di fianco e poi di nuovo di dietro. Gli amici mi osservavano e i vecchi mi strizzavano l'occhio. Le donne e le ragazze si scrutavano l'un l'altra a capochino. Il gran Lombardo, grave, si schiariva la gola. «È proprio una donna», dissi io. L'arrotino mi si avvicinò, si piantò accanto a me sul piedistallo e alzò gli occhi anche lui. «Sicuro!» esclamò. «È una donna!» Girammo entrambi sul davanti di lei con gli occhi sempre alzati. «Hai il latte lì!» osservò l'arrotino e rise. Risero dai piedi del monumento le ragazze, sorrise il gran Lombardo. «È una donna!» dissi io di nuovo. Mi allontanai di uno o due passi sul piedistallo e l'arrotino mi seguì. Tutti e due guardammo la donna nel suo insieme. «Non c'è male, no?» l'arrotino chiese. Io gli feci notare il sorriso di lei e l'arrotino mi diede un colpetto col gomito. «Ah, disse. La donna stava eretta con un braccio levato verso il cielo e l'altro piegato sopra il petto come per toccarsi l'ascella del primo. Sorrideva. «Sa tutto», l'arrotino disse. Rise ai piedi del piedistallo una ragazza e l'arrotino soggiunse «La sa lunga tanto quanto è lunga». «Sa anche di più», dissi io. «Sa che è invulnerabile». «Davvero?» il mio interlocutore esclamò. «Si capisce», dissi io. «Sa che è di bronzo». «Ah, ecco!» esclamarono i miei interlocutori e io continuai «Lo si vede, no?» Lo si vede, i miei interlocutori riconobbero. Io scesi un gradino e mi rimisi giù, seduto. Ognuno si allontanò di qualche passo, ognuno sedette. «Questa donna è per loro», dissi. Tutti assentirono e io soggiunsi: «Essi non sono morti comuni, non appartengono al mondo, appartengono ad altro, ed hanno questa donna per loro». Aveva detto il soldato. «Non è gentile da parte nostra dedicare loro una donna», continuai. «In questa donna noi li celebriamo». Il soldato aveva detto. «E in questa donna», io continuai, «in questa donna...» Mi interruppi e il soldato parlò in me. Disse forte. Chiesero seduti intorno i miei interlocutori. «Niente», io dissi, «ho detto solo em». Ma di nuovo il soldato parlò in me e di nuovo disse. «Che storia è questa?» si chiesero l'un l'altro, coi baffi e senza baffi. «È una parola suggellata», io risposi. I siciliani si guardarono tra loro. «Ah», disse l'uomo Porfirio. «Già», disse l'uomo Ezechiele. «Sicuro», disse l'arrotino. E il gran lombardo assentì col capo. Ognuno assentì. Uno disse: «Anch'io la conosco». «Che cosa?» coi baffi chiese. «Che cosa?» chiese senza baffi. In alto sorrideva, sopra tutto questo, la donna di bronzo. «Ed è molto a soffrire?» chiesero i siciliani. Questa fu la mia conversazione in Sicilia, durata 3 giorni e le notti relative, finita come era cominciata. Ma debbo notare che accadde ancora qualcosa dopo la fine. Ero tornato da mia madre per congedarmi e la trovai in cucina che lavava i piedi a un uomo. L'uomo sedeva con le spalle alla porta. Era molto vecchio. Lei, inginocchiata sul pavimento, gli lavava i vecchi piedi in un bacile. «Parto, mamma», io le dissi. «C'è la corriera». Mia madre alzò il capo di là dall'uomo. «Allora non mangi con noi?» rispose. L'uomo non si voltò né alle mie né alle sue parole. Aveva i capelli bianchi, era molto vecchio e teneva il capo chino. Sembrava assorto profondamente o che dormisse. «Dorme?» chiesi io sottovoce a mia madre. «No, piange lo scemo», lei rispose e soggiunse: «È stato sempre così. Piangeva quando partorivo e piange anche ora». Sottovoce io esclamai: «Ma come? È il babbo?» Lui intanto non ci prestava attenzione. Mi avvicinai per guardarlo in faccia e lo vidi che la teneva nascosta con la mano. Mi pareva ad ogni modo troppo vecchio. E per un momento pensai quasi che fosse mio nonno. Pensai anche che poteva essere il viandante di mia madre. «È tornato adesso?» chiesi sottovoce. Mia madre scosse il capo con disapprovazione. «Piange», disse. «Non sa che sono fortunata». Ma qui lasciò soli nell'acqua del bacile i vecchi piedi dell'uomo e si alzò. Mi trasse in disparte. «A proposito, tu mi hai imbrogliato con quella Cornelia», mi disse. «Non fu sul campo che morirono i suoi gracchi?» «Non fu sul campo», io esclamai sempre sottovoce. «No», continuò mia madre. «L'ho visto nei vostri libri di ragazzi quando sei stato fuori». «Bene», dissi io, e la baciai su una tempia. «Ciao». «Non vuoi salutarlo? Lui?» mia madre mi chiese. Io esitai guardando il vecchio, poi dissi: «Lo saluterò un'altra volta, lascialo stare». E uscii dalla casa in punta di piedi. Ad evitare equivoci o fraintendimenti, avverto che come il protagonista di questa conversazione non è autobiografico, Così la Sicilia che lo inquadra e accompagna è solo per avventura Sicilia, solo perché il nome Sicilia mi suona meglio del nome Persia o Venezuela. Del resto immagino che tutti i manoscritti vengano trovati in una bottiglia. Tommaso Ragno ha letto Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.